Rubbish Bit di Giulia Crivelli. Rush. Shoppers rush back to the high street. Dozens queue in Birmingham yesterday as non-essential stores reopened for the first time since March. Anche nel Regno Unito è arrivato il momento di riaprire i negozi e la maggior parte dei quotidiani britannici hanno dedicato articoli al primo giorno della nuova fase post-lockdown totale. Le persone tornano a riempire le strade dello shopping, era il titolo dell'Independent, affiancato a una foto scattata nella città di Birmingham che aveva questa didascalia. A dozzine in fila nel giorno in cui i negozi di beni non essenziali hanno aperto al pubblico dopo essere stati chiusi fin da marzo. La prima parola che ci interessa è il verbo to rush, regolare. Rush, rushed, rushed. Una prima traduzione è muoversi in fretta, fare le cose in velocità. We've got plenty of time, there's no need to rush. Abbiamo tutto il tempo necessario, non c'è alcun motivo di fare le cose in fretta. Don't rush off, I have not finished. Non schizzare via, non ho finito. I have been rushing around all day trying to get everything done. È tutto il giorno che corro, cercando di fare tutto quello che avevo in mente di fare. People rushed to buy shares in the company. Tutti corsero a comprare azioni della società. Un'altra sfumatura è fare le cose troppo in fretta. We don't want to rush into having a baby. Non vogliamo forzare i tempi e avere subito un figlio. Don't rush me. I need time to think about it. Non mettermi fretta. Ho bisogno di tempo per pensarci. I'm not going to be rushed into anything. Non permetterò a nessuno di farmi fare le cose secondo i suoi tempi. Potremmo dire secondo la tabella di marcia altrui. Rush è anche sostantivo e ci sono molti modi di dire legati al suo significato principale. I can't stop, I'm in a rush. Non posso fermarmi, vado di fretta. What's the rush? Che fretta c'è? Diremmo in italiano. He had a rush of blood to the head. Gli andò il sangue alla testa, se vogliamo tradurre. Rush hour è l'ora di punta, quella in cui, per definizione, tutti vanno di fretta. If you can, it's better not to travel in the rush hour. Se possibile, è meglio non viaggiare durante le ore di maggior traffico. Un altro verbo usato nel titolo che abbiamo citato è to queue, regolare, che vuol dire mettersi in coda. E, come per to rush, il sostantivo queue è la coda. We had to queue, o queue up, for an hour for tickets. Dovemmo fare una coda di un'ora per comprare i biglietti. Queue here for taxis, mettersi in coda qui per i taxi. I had to join a queue for the toilet. Per andare in bagno dovetti mettermi in coda. How long were you in the queue? Da quanto tempo sei in coda? Il verbo si può usare anche in senso figurato. Football clubs are queuing up to sign the young star. Le società di calcio si stanno mettendo in fila per mettere sotto contratto la giovane star. Queue jumping è la pratica di saltare la coda, come in italiano.